Capitolo 40. Venezia, 2 novembre 1551. Il Putto sa quello che deve fare. Il Putto ha 10 anni. Al rintocco consegna il messaggio al palazzo, con il contrassegno prestabilito, impresso sul dorso del foglio ripiegato, il calco di un serpente, avvolto alla lama di una spada. Il messaggio dice: «Il tedesco è a Venezia, luogo e ora stabiliti». Il Putto sa bene che deve insistere che l'eccellenza lo riceva subito, altrimenti saranno frustate. Piagnucola che il padrone l'ha mandato lì, ha detto che era urgente, che se no sono guai par mie partì. Il Putto, riccioli biondi fin sopra le spalle, denti bianchi come la prima neve, è una faina ammaestrata. Insiste, piagnucola, consegna e sparisce. Il posto è la chiesa di San Giovanni, dietro il fondaco dei turchi. L'uomo senza volto è puntuale. Come stabilito, si siede nel confessionale e aspetta. L'ometto pelato, dall'altra parte della grata, attacca la sua storia. Parla della sua vita di peccatore, di quanto poco frequenti le messe, di quanti anni sono che non si confessa. Le chiese però gli piacciono, comunicano una sensazione di quiete e soprattutto questa, così piccola, così appartata, gli ha fatto venire voglia di liberarsi la coscienza. L'uomo senza volto impreca tra sé. Non era questo pedante botolo dall'accento toscano che stava aspettando. Resta in silenzio, attende che finisca. La voce gracchia di come non riesca a resistere alla tentazione del gioco, di quanto gli pesi aver vinto quei soldi e del bisogno di devolverli a opere di bene. Qualcosa viene premuto nella fessura sotto la grata, brilla alla luce che filtra attraverso la tenda, si incastra sul bordo e con l'ultima spinta gli rimbalza in grembo. L'uomo senza volto è confuso. La voce si profonde in ringraziamenti. Aveva proprio bisogno di liberarsi di questo peso. Per fortuna ci sono sempre dei santuomini disposti ad ascoltare e intanto si affievolisce. Le ultime parole ricordano che prima o dopo tutti finiremo al cospetto dell'Altissimo. Il confessionale è vuoto. L'uomo senza volto ha un sussulto. Esce nella navata. Nessuno. Apre il palmo che racchiude la moneta. Le iscrizioni sono fitte sia sul recto che sul verso. Deve avvicinarla per poterle decifrare. Parlano la sua lingua. Un Dio, una fede, un battesimo, un re giusto soprattutto. La parola si è fatta carne. Münster, 1534. L'uomo senza volto si precipita fuori dalla chiesa. La luce lo abbaglia, si ferma. Dell'ometto non c'è traccia. Il regno di Sion, Münster, Venezia. In mezzo un mare di tempo riempito dall'enigma. Il tedesco che ha il nome di un morto. Lo spettro che ha portato fin lì quella moneta. Tutto accade troppo in fretta, all'improvviso, sotto il riverbero del cielo contro il selciato. Il campiello si anima di una strana agitazione. Giovani corpulenti con ghigni da invasati accorrono dai lati opposti. Le casacche dei Nicolotti contro quelle dei Castellani. Prima insulti, imprecazioni, qualche sasso, bastone in vista, poi un groviglio di corpi impazziti occupa l'intera scena. L'uomo senza volto, attonito, spalle al muro, cerca di guadagnare lo strettissimo vicolo che fiancheggia San Giovanni. Al suo fianco compare una creatura enorme che lo sospinge in quella direzione. L'uomo senza volto arretra, impressionato dall'incredibile visione di una donna alta 2 metri, con un cappello largo quanto il vicolo, da cui fuoriesce l'acconciatura alta da medusa. Bianca in faccia, con gli occhi cerchiati di blu, i capezzoli in vista, tinti di rosso carminio, puntati su di lui all'altezza del volto, gli zoccoli altissimi, avanza come sui trampoli e sorride. L'uomo senza volto non è più sicuro di ciò che vede. Si volta e prova ad allungare il passo nel vicolo sempre più stretto. In fondo, il Putto lo sta aspettando. Fa ampi cenni. «Vieni, signore, vieni, di qua!» Il Putto ha 10 anni. E sa quello che deve fare. L'uomo senza volto non può fare altro che andare incontro a quella cascata di riccioli dorati. Quando vede la porta spalancata sul buio alla sua destra, è troppo tardi per provare a tornare indietro. Sotto i suoi coglioni scintilla la lama che il Putto punta con mano ferma. L'uomo senza volto non è sicuro di ciò che vede. Il fratello del sefardita lo prende in consegna. Il freddo della lama adesso è sul collo. Lineamenti gentili e sulla faccia quasi un sorriso. La porta viene richiusa alle sue spalle. L'uomo senza volto scende le scale strette verso la luce debole di una torcia. Avverte l'acre odore di muffa, l'umidità che all'istante gli penetra le ossa. L'amico fedele del sefardita gli infila un cappuccio, lega i polsi dietro la schiena. Nessuno parla. Lo fanno sedere su una panca malferma. L'uomo senza volto non vede, non sente più scorrere il tempo. Il fratello del sefardita dice che dovrà aspettare. Le spiegazioni giungeranno al momento dovuto, non prima. Poi, di nuovo silenzio. L'uomo incappucciato ha gli arti invasi dal torpore. Molto freddo, inarca la schiena, stende le gambe. Inizia a essere scosso dalla fatica. Dopo un tempo infinito, tre colpi sordi dal fondo della cantina. Il fratello e l'amico del sefardita lo prendono sotto braccio e lo sollevano, trascinandolo fino a un passaggio angusto. L'uomo incappucciato non oppone resistenza, gambe malferme, sente lo sciabordio di un'imbarcazione sull'acqua. Lo fanno salire. Il gobbo affonda la pertica e avvia la barca verso il dedalo di canali, protetto dal favore del buio. L'uomo incappucciato non sa quale sorte lo attende. Il sefardita aspetta in una casa sicura affacciata sulla sacca della misericordia. L'uomo incappucciato viene sbarcato e accompagnato dentro l'abitazione. Un rapido saliscendi di scale, poi viene fatto accomodare su una poltrona. Il sefardita gli siede di fronte. L'uomo incappucciato annusa l'odore di sigaro e percepisce una luce tenue. Il sefardita ha modi gentili e idee chiare. Dice che la spiacevole condizione di prigioniero rende ogni uomo, anche il più forte, incapace di prevedere l'immediato destino. Se poi viene imposta a chi è abituato a decidere dei destini altrui, si può immaginare l'imbarazzo che provoca. Tuttavia, aggiungere qualche notizia che contribuisca a chiarire i contorni di quanto va accadendo può certamente alleviarne il peso. Il sefardita dice che a Venezia bisogna essere particolarmente cauti nello scegliere gli informatori, che a Venezia quello è probabilmente il mestiere più diffuso dopo il meretricio e anzi si può dire che non differisca in nulla da quest'ultimo. A Venezia gli informatori fanno presto a cambiare bandiera. Del resto, una spia non chiede altro che una buona paga e la sicurezza della propria persona. Chi sa offrirgliele godrà dei suoi servigi. Per cui è possibile che simili inconvenienti siano dovuti alle scarse remunerazioni offerte dagli inquisitori o all'eccessiva generosità dei loro avversari. Ed è buffo che tali laute ricompense, in questo caso, provengano da chi, da sempre, porta il titolo di avaro e usuraio. L'uomo incappucciato sente i suoi passi procedere in circolo. Dopo qualche secondo, la voce riprende. Dice che l'affidarsi a informatori poco devoti è stata certamente una leggerezza, ma non la sola. Non lasciare vie di scampo al nemico, infatti, è un'imprudenza altrettanto grave. Stringere il laccio attorno al collo di un'intera comunità, farle presagire un futuro di sofferenza e di morte, non può che scatenare reazioni sorprendenti. L'uomo con le spalle al muro è quello che si difende meglio. La guerra, non solo quella spirituale, è un'arte raffinata quanto la diplomazia, che da essa deriva. In quest'arte, loro malgrado, i giudei sono costretti a eccellere. Quando si è accerchiati, si elaborano trame. Di fronte alla morte, si combatte. Il sefardita preannuncia che ci sarà molto altro di cui parlare, come ad esempio di quel turco che millanta ad essere al loro servizio per conto del sultano. Ma ogni cosa al momento giusto, perché prima, dopo qualche ora di riposo, lo aspetta un altro viaggio. L'uomo incappucciato si lascia stendere su una branda e cade in un sonno inquieto.